9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 1 marzo. Innanzitutto onore al tenente Massimo Ranzani del 5 reggimento alpini di Vipiteno, il 37esima vittima caduta ieri in Afghanistan. Onore a lui, sostegno e solidarietà ai suoi cari. Credo che sia un nostro dovere ogni volta che un militare italiano cade nell'adempimento della sua missione ricordarlo anche solo per pochi secondi, per unirci intorno a chi fa scelte di questo tipo e intorno a chi resta, che poi resta con la memoria di una vita impegnata. Avete visto per l'ennesima volta le fotografie e i reperti, anche i filmati in cui si documenta la missione, che non è solo una missione armi alla mano, ma è una missione anche impegnata nel dare a quelle popolazioni scuole, banche, attrezzature, infrastrutture, una qualità di vita migliore. Tentiamo di ricordarceli questi caduti. Il tema che affrontiamo oggi è un tema molto delicato, perché è un tema con il quale io personalmente ho fatto a lungo i conti per le mie esperienze di malato, in particolare quando ho avuto a che fare con sviluppi che mi colpivano da vicino. Un anno ho passato 10 mesi in un ospedale per delicati interventi che avevano a che fare con un male molto aggressivo che mi aveva colpito. Mi è capitato qualche volta di dire che anche che faccio il volontario, quindi da anni io mi pongo il problema, a dire la verità, che non mi ero posto quando più giovane. Naturalmente vivevo nella percezione di questa vita infinita, che è un pochino il difetto, secondo me, comunque la crediate, della nostra maniera di vivere la quotidianità, di essere convinti che c'è questa eterna giovinezza che va oltre i decenni, che noi siamo eterni, e l'eterno presente è un pochino il declino che la modernità tenta di dare alle vite di ciascuno. Invece esiste la sofferenza, esiste la malattia, ed esiste per tutti la morte. E naturalmente il confine tra la vita e la morte, da che nel premodernità era qualcosa di assolutamente naturale in relazione al fatto che la scienza, le tecniche mediche, gli sviluppi delle diagnosi e delle terapie erano molto arretrate, con invece il progresso, grazie al cielo, che ha consentito a molte patologie di dare risposte in pochi decenni e che ci vede impegnati in altre patologie che ancora non ne hanno, a tentare di dare una risposta altrettanto efficace, ha aperto un grande problema, che è un problema che riguarda noi tutti, in quanto persone sane, in quanto parenti di malati, in quanto persone che vivono nel mondo, e si devono porre la questione di come mettere insieme alcuni principi fondamentali. Il principio fondamentale del diritto alla salute è un principio costituzionale, come ovvio, il principio ad avere una cura e terapie essendone informati, ed è un principio che sta nella Convenzione di Oviedo, è uno strumento internazionale firmato anche dall'Italia, che appunto dispone alcuni principi fondamentali, insieme ai quali c'è però anche il divieto di eutanasia, che contempera l'obbligo deontologico per i medici di prestare cure e terapie adeguate alla gravità delle patologie. E quindi vi sono alcune particolari questioni. Da una parte quella di dare, in maniera che l'ordinamento lo preveda e dia adesso un particolare valore, disposizioni precedenti al trattamento per ciascuno di noi, anche quando è sano, prevedere quanto possono durare prima di non avere più valore rispetto al fatto che magari anche le tecniche medico-scientifiche possono essere avanzate, che valore possono avere queste disposizioni, se sono state espresse nella maniera corretta, per scritto, quando non si è più coscienti nella fase del male, che non ti consente più di essere interlocutore in una specie di alleanza terapeutica con il medico che ti ha in cura. Chi a quel punto, un garante di queste disposizioni, per esempio previsto sin dall'inizio, può interloquire con il medico? Come il medico può decidere, e se, di non tenere conto fino in fondo di quanto è scritto nelle disposizioni? E poi ancora, come associare a terapie o invece a forme essenziali che consentano la permanenza in vita alcuni trattamenti come quelli dell'idratazione e dell'alimentazione col sondino, tutte le cose che abbiamo visto esplodere nei casi di Welby, nei casi di Eluana Englaro, come temi delicatissimi, temi che hanno diviso l'opinione pubblica nazionale, che hanno visto molte voci da una parte affermare il pieno, assoluto dominio dell'autodeterminazione del malato, il pieno diritto a disporre di sé, e dall'altra parte invece chi sostiene che vi sono dei limiti e che le tecniche di idratazione e alimentazione non configurano terapie, ma configurano sostegni necessari alla vita, e che la vita va difesa, che sono principi altrettanto richiamati anch'essi nella Convenzione di Oviedo. Come vedete, il terreno è molto scivoloso, perché ha a che vedere con problemi etici in cui l'individuo e gli interventi di terzi rispetto all'individuo vanno contemperati, ed è un dibattito che secondo me va affermato innanzitutto e sostenuto con un tono basso, se mi consentite, un tono basso non solo perché bisogna sempre pensare ai soggetti primari di chi si sta parlando, persone che soffrono, persone che spesso non sono consapevoli di ciò che li sta riguardando, ma anche perché io sono convinto questi temi così delicati, affrontarli, come spesso si vede, non sta a me dare giudizi, in appelli contrapposti in cui il tono della crociata e della scomunica, dell'anatema prevale, secondo me ha il forte rischio di indebolire la società, innanzitutto fatta di valori comuni, comunque la si pensi, e la possibilità poi di intervenire efficacemente quando si pongono i tanti casi, che non sono solo quelli che vanno all'onore delle cronache, credetemi, lo sapete perfettamente se avete un'esperienza di qualunque ospedale, sono le migliaia di casi che nella quotidianità si pongono, laddove il rischio è di occuparci di pochi casi che fanno rumore e poi di assistere al fatto che magari migliaia di anziani malati con patologie croniche d'estate vi si stacca la spina senza vedere per liberare i posti. Allora, io dico questo perché la prossima settimana alla Camera va all'esame dell'Aula un disegno di legge che nel testo uscito dal Senato dopo un lungo dibattito nei 2 anni precedenti, era conosciuto come disegno di legge Calabrò, esattamente una norma che affronta tutti questi argomenti. E allora abbiamo scelto stamattina di parlarne con un tono di voce rispettoso e basso, se permettete, invitando 3 ospiti e chiedendo a voi anche di intervenire poi dopo per porre loro domande e per dirci come la pensate. E i nostri 3 ospiti sono innanzitutto il relatore del provvedimento sul fine vita e sull'alleanza terapeutica, che è il vicepresidente del gruppo PDL alla Camera dei Deputati, l'onorevole Domenico Di Virgilio, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Grazie dell'invito, dottore. Poi abbiamo il professor Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore di ricerca per l'Istituto Mario Negri di Bergamo e direttore del Dipartimento Trapianti degli Ospedali Riuniti, sempre di Bergamo. Buongiorno professor Remuzzi. Buongiorno, buongiorno a voi. E Victor Tambone, che è medico e direttore dell'Istituto di Filosofia dell'Agire Scientifico e Tecnologico al Campus Biomedico di Roma. Buongiorno professor Tambone. Buongiorno a tutti voi. Allora, onorevole Di Virgilio, naturalmente mi scuserà perché nella sintesi l'improprietà tecnica rispetto alle norme della proposta di legge non può che essere così, però le do 2-3 minuti per richiamare dal suo punto di vista quali sono i caposaldi per i quali lei crede e convinto che questo testo di legge innanzitutto va approvato, perché si è aperto anche un dibattito ultimamente sul fatto se sia proprio opportuno intervenire con una norma oppure no, o lasciare al medico e poi anche alla magistratura, non dimentichiamocelo, che con molte sentenze ha aperto, come sempre, con una funzione sostitutiva rispetto alla politica, molti varchi che hanno fatto discutere ancora più dell'assenza della norma. Prego Di Virgilio. Grazie moltissimo, anche se 2-3 minuti sono pochissimi per illustrare un argomento che lei ha presentato in maniera corretta, e io voglio dire che il testo che noi abbiamo ricevuto dal Senato è stato ampiamente rivisto e migliorato, secondo il mio modo di vedere, rispetto al testo del Senato. Noi abbiamo innanzitutto il tema è triplice, si parla di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazione anticipata di trattamento, sono 3 punti che non vanno distinti l'uno dall'altro. Il testo che andrà in aula alla Camera e che io ho emendato diversifica sotto 3 aspetti dal punto di vista di quello del Senato. Uno, abbiamo ampliato la platea dei soggetti che che hanno diritto a questa legge, cioè dire, mentre il Senato si era limitato sulla scia di quello che era successo a Eluana Englaro agli soggetti in stato vegetativo, con un mio emendamento si è ampliata la platea, nel senso che riguarda tutti i soggetti che un giorno si trovassero nella condizione di incapacità di intendere e di volere. Secondo, importante, quello dell'idratazione e nutrizione, sono in sintetico logicamente, ed è quello che sulla base dell'esperienza mia, di altri medici che io rispetto, sono medico, e non per questo io ho scelto questa via, di poter sospendere questa idratazione e nutrizione nelle fasi in cui il medico le considera non più efficaci per il paziente. Terzo, abbiamo introdotto come quando il soggetto non dichiara, non sceglie nessun fiduciario, il ruolo dei familiari, che non era stato preso in considerazione dal Senato. Ed ultimo, diciamo così, sinteticamente, che queste dichiarazioni di cifra di trattamento, cioè a dire quello che un soggetto in piena condizione di intendere di volere lascia detto che un giorno si faccia o non si faccia, se non siano vincolanti per il medico, proprio perché pensiamo che il medico non deve essere vincolato alla decisione di un paziente, non si può esigere un trattamento sanitario che il medico in scienza e coscienza non ritenga di effettuare, qualora per il bene del paziente la scienza e la tecnica ci hanno in seguito dimostrato che si possa intervenire in modo positivo, soltanto in questo caso, non perché vogliamo dare libertà al medico, ma perché il medico, che non è uno spettatore passivo, non è un tecnico, possa scegliere scienza e coscienza quello che è per il meglio per il paziente. Questo in estrema sintesi il contenuto del provvedimento che andrà in aula. Io la ringrazio della sintesi, naturalmente la prego di stare con noi fino alla fine della trasmissione per il dibattito, ma poi per rispondere a ogni domanda, perché vi sono molti aspetti che vedo subito dai messaggi, ovviamente non sono chiari ai nostri ascoltatori. Professor Ramuzzi, dal suo punto di vista, una legge sì o no? E in realtà nell'esperienza clinica quotidiana, insomma negli ospedali, il margine vero del medico rispetto alla condizione del paziente, a quest'idea di protrarre la vita dei pazienti all'estremo limite, cosa che è possibile con le tecniche respiratorie, rianimatorie che oggi sono naturalmente alla portata di ogni centro ospedaliero minimamente attrezzato. Ecco, tutto questo insieme, che cosa le fa dire in sintesi? Mi fa dire una legge no, in particolare no, una brutta legge, e questa purtroppo è una brutta legge, frutto di un pasticcio di situazioni per cui io metto questo, tu togli quello, che non hanno niente a che vedere col tono basso e con le persone che soffrono. Una volta Angelo Panebianco, 2 anni fa, ha scritto una cosa stupenda, secondo me l'ipocrisia potrebbe essere una virtù, a proposito della legge su fine vita, per ridurre le sofferenze dei malati senza offendere certe sensibilità ed evitare di trasferire sulla pubblica piazza ciò che non è assolutamente idoneo ad essere esposto in piazza. Ed è così, viene uno con 300 malattie, perché deve morire in rianimazione dopo mesi di ventilazione meccanica? Non è umano. Siamo mortali, dovremmo per un momento poterlo accettare. Questo viene da un libro scritto da una persona del Mario Negri, il dottor Bertolini, che riprende un infermiere. Questo è buon senso. Noi con questa legge, secondo me, abbiamo perso il buon senso, che deve essere la guida di questa cosa qua. C'è una cosa bellissima che si riferisce al più grande chirurgo di tutti i tempi, De Becchi. Ha insegnato a tutti i cardiochirurghi del mondo a riparare l'aorta se si rompe. Quando è successo a lui, aveva 97 anni, non si trovava nessuno che volesse operarlo. Senza chirurgia sarebbe morto, ma aveva firmato un foglio. Niente rianimazione se mi capita di essere in coma. Chiedono al comitato etico e quelli non sanno che pesci prendere, come succede spessissimo quando si chiede ai comitati etici di rispondere sì o no. E allora non decide nessuno, decide la moglie. Alla fine trovano il chirurgo. Sono felice che l'abbiano fatto, ha detto a proposito dei chirurghi che hanno accettato di operarlo. Il bello è che non si ricordava nemmeno di aver firmato un foglio con scritto di non rianimarlo. I dottori, ha detto alla fine il più grande cardiochirurgo del mondo, in casi così devono saper decidere senza bisogno di comitati. Ecco, non è questione che decida il dottore o che decida il parente o che decida il figlio, dipende da che dottore, dipende dalla circostanza, dipende da che parente, dipende da che fiduciario. Ecco, queste sono delle situazioni che non si prestano ad essere, secondo me, regolamentate per legge. Victor Tambone, nella sua esperienza e alla luce dei suoi valori e delle sue convinzioni, una legge sì o no, e quali sono i limiti di queste norme, soprattutto pensando poi alla casistica amplissimamente diversificata, aperta come una forbice dalle lame molto distanti, che è quella che nella quotidianità può capitare e capita ogni giorno negli ospedali, rispetto alle fattispecie che si possono definire pur sempre a colpi di accetta in pochi articoli di legge. Sì, ma io non so, io ho apprezzato quello che dice Remuzzi, e d'altra parte però apprezzo anche alcuni aspetti della legge. Io dico, nella quotidianità a me sembra di trovare e di aver trovato molta gente, medici, infermieri e colleghi che lavorano in ospedali, che puntano a cercare di risolvere i problemi delle persone che sono loro affidate. A me sembra che questo sia un argomento molto interessante da continuare a sviluppare, senza dare un rilievo che forse può anche essere eccessivo, no? Al testamento biologico. D'altra parte, io ho molto rispetto veramente della libertà, no? Il concetto di autonomia a me piace tantissimo, proprio perché è un riflesso della libertà. Ora, d'altra parte, la libertà è informata, pertanto le decisioni devono essere prese quando uno si rende conto veramente della situazione in cui si trova. Ora, da questo punto di vista io ho qualche dubbio sul testamento biologico da un punto di vista clinico, perché io ho visto tante volte che le stesse persone che la pensavano in un modo prima di avere una patologia, poi nel momento in cui si trovano a star male cambiano idea, il vissuto che avevano immaginato poi lo trovano diverso nella realtà. Insomma, a me, io francamente penso che dovremmo incoraggiare molto i colleghi medici, i colleghi ricercatori scientifici a trovare molte soluzioni buone per la gente che effettivamente sta male, in modo tale che nessuno voglia morire. A me sembra che questo sia il grande compito dei medici. Il resto, senz'altro, rispettare la libertà, però una libertà che sia veramente informata. Pertanto io non lo so, questo mi sembra che Remuzzi ci potrebbe dire qualcosa, perché, ma anche di Virgilio, cioè su quali evidenze scientifiche lavoriamo quando parliamo del vissuto di coma, ma a me sembra che ne abbiamo veramente poche, oltre agli esperimenti di Owen ne abbiamo veramente poche, pertanto come facciamo a spiegare ai nostri pazienti che cosa proveranno quando stanno in coma? Io non me la sento in quanto medico di dirlo, mentre me la sento di dire ai pazienti che si ricoverano in ospedale: guarda, noi avremo cura di te fino alla fine, quello che possiamo fare facciamo, no? E quello che è stupido fare speriamo di non farlo, ecco. Così la vedo io, ecco. Ma mi sembra che sia da mettere molto in primo piano, più che le contrapposizioni ideologiche, cui questo discorso poi cade con una certa facilità. Mi sembra che bisogna mettere in primo piano il primo dovere etico di chi fa scienza e soprattutto di chi fa medicina, cioè di lavorare con eccellenza. E bene, allora dopo queste tre sintesi io faccio un paio di domande concrete a tutti e tre i nostri ospiti subito dopo la pubblicità. Eccoci tornati in studio, molti ascoltatori mi dicono: ma perché con una trasmissione così non invitare i radicali, quelli che lista Coscioni, insomma coloro che intorno al caso di Elbi, di Peppino Englaro hanno animato di più il dibattito sulle posizioni laiche. Io ho preferito il relatore e due medici di due punti di vista diversi, come avete visto. Ricordo la battaglia naturalmente di chi su quei casi si è molto dato da fare, e si è molto dato da fare in quel caso in nome della autodeterminazione e della libertà. Tuttavia, vedete, ci sono questioni facili da affrontare in termini di principio, e vi sono poi situazioni concrete che rispetto ai principi difficilmente, se non da punti di vista diversi, con esiti diversi, vi si calano dentro. Io per esempio, quando affrontai il problema in termini di letteratura scientifica su che cosa sia la morte cerebrale, vidi inevitabilmente i tanti punti interrogativi aperti dopo un famoso saggio che negli anni 60 negli Stati Uniti pose i fondamenti di che cosa sia la morte cerebrale, di fronte al fatto che l'evidenza, oltre che la ricerca, ma i casi patologici accumulati nei decenni ci hanno dimostrato quanto diverse dall'aspettato possono essere le conseguenze, per esempio su interruzione sanguigna più o meno lunga, al tratto mesoencefalico, al tratto corticale e così via, e rispetto al fatto che non ne sappiamo poi ancora molto, naturalmente mi sono posto molti problemi quando dovevo scrivere io le mie disposizioni su che cosa fosse la morte vera, alla quale dire levate poi tutto il resto della rianimazione a ciò che resta del corpo. E vi dico la verità, per me è una questione aperta innanzitutto per quello che riguarda me, e ho cambiato più volte idea. La domanda che faccio ai nostri tre ospiti, sono due domande uguali per tutti, così gli do più tempo per rispondere. La prima è, ammettendo che la legge ci sia, che cosa deve disporre per appunto i pazienti che stanno, chiamiamolo coma, per capirci con una sola parola, tecnicamente impropria, come è possibile immaginare un sostegno diverso e fino a che punto per chi è in coma? Secondo, sul tema concreto che animò il dibattito in entrambi i casi, cioè il sondino, l'idratazione, l'alimentazione e terapia, come dice persino la sentenza della Corte di Cassazione in Italia, e quindi in quanto tale può rientrare nei limiti di determinazione, oppure sono forme di sostegno vitale che, se venissero interrotte, non sono come interrompere la terapia per l'accanimento terapeutico, ma significherebbero eutanasia. Queste due domande uguali per tutti, cominciamo dal relatore, onorevole Di Virgilio. Grazie molto. Innanzitutto voglio dire che in fondo non siamo così separati, così distanti da quello che dice Remuzzi e da quello che dice il collega del campus biomedico, perché il diritto alla vita è sempre stato garantito in tutta la società, è un principio fondamentalmente laico, comune a tutte le culture, civiltà, credenti e non credenti. Questo è il punto di partenza. Noi con la legge ribadiamo non all'eutanasia, e credo che tutti siano d'accordo, a parte alcuni, non all'accanimento, non all'abbandono terapeutico. Lei, il dottore, ha citato la Convenzione di Oviedo, bisogna leggerlo, bisogna conoscere bene i testi, come bisogna conoscere bene il testo che noi andiamo ad esaminare. E la Convenzione di Oviedo parla anche dell'articolo 9, che il medico debba tener conto, ma non tener conto, non significa essere vincolato, proprio per quello che ho detto. Vincolabilità o meno del medico sta proprio in questo, cioè un medico non può essere vincolato in modo assoluto a quello che un soggetto dichiara quando è in grado di intendere di volere, quando è bello, lucido, quando è sano. Come lei ha detto, ho cambiato più volte idee, è benissimo, la legge permette questo, ci mancherebbe altro che uno cambi idea, che cambi dichiarazione di trattamento quante volte vuole. E per quanto riguarda il sondino di idratazione e nutrizione, noi siamo dell'opinione che non può essere considerato come terapia, come le altre terapie, innanzitutto perché io, nella mia esperienza di medico, e non solo io, domanda a Remuzzi se ha visto nessuno guarire di una patologia perché viene idratato o non idratato, nutrito o non nutrito. La Luana Englaro non sarebbe morta se non fosse stata sospesa l'idratazione e nutrizione, che non è una terapia, è un sostegno vitale. Quindi per noi, non essendo terapia, non può essere messa nelle condizioni di essere trasmessa nelle DAT, perché sarebbe come introdurre nel nostro ordinamento l'eutanasia passiva, tanto è vero che come è successo nel caso anche del Rischiavo. Lasciamo stare Welby, un altro problema, Welby era lucido e staccare la spina in quei casi è un altro problema. Quindi per quanto riguarda poi il fatto che lei dice se c'è bisogno di una legge o non una legge, io voglio considerare un fatto: la magistratura è entrata nel caso del Luana Englaro a gamba tesa in questo problema, prendendo una decisione che spetta al Parlamento. Ecco perché la necessità di una legge, che prima non c'era necessità. Anch'io da medico ho agito sempre in scienza e coscienza, come tutti i medici agiscono in scienza e coscienza per il bene dell'ammalato, considerando le sofferenze, considerando i rapporti con familiari, i rapporti con le persone più vicine a coloro che soffrono. Quindi la decisione del medico è una decisione sempre per il bene del paziente, e bisogna considerare, a qui termino, che il soggetto in stato vegetativo non è un soggetto in coma, è diverso. Il soggetto è stato, a parte che la scienza ancora non ci permette di dire quali percezioni, se sono reversibili, sono irreversibili, quali percezioni possono avere questi soggetti. Il soggetto in coma profondo è un soggetto diverso. Noi non vogliamo nei casi terminali in cui ci sia consentire forzosamente di tenere in vita persone che invece sono destinate a morire nella maniera più assoluta, come pure queste persone non sarebbero persone che sono, come dice, come giustamente dice Remussi, nella condizione di morte cerebrale esposte al prelievo di trapianto di organi, perché questo è assurdo e significherebbe veramente un'eutanasia. Questo è il mio pensiero. Remussi. Allora, io due parole le vorrei dire, magari dopo, perché forse adesso risponderei alle sue due domande su questa storia della eutanasia e accanimento terapeutico, perché questo serve per far capire come tutte queste cose non si prestino ad essere regolamentate per legge. Magari ne parliamo dopo se riusciamo. Allora, coma, uno in coma è vivo e quindi va trattato sempre, comunque, finché non muore. Sul coma non c'è discussione, deve essere curato, perché chiunque, per quanto il coma possa essere grave, questo profondo e irreversibile sono cose che non hanno nessuna base scientifica, può dal coma riprendersi. La morte, a quel punto lì l'individuo è morto, può essere quando si ferma il cuore oppure quando c'è una lesione irreversibile del tronco del cervello, che è quello che collega gli emisferi cerebrali alla periferia. Allora uno è freddo, non è in grado di regolare la pressione, non è in grado di respirare da solo, lo facciamo respirare con le macchine, lo osserviamo per un certo periodo e allora il cadavere può diventare soggetto di espianto di organi. Lo stato vegetativo. La definizione di Lancet Neurology, che deriva dall'analisi di tutta la letteratura medica disponibile, non lascia dubbi nemmeno sullo stato vegetativo. Lo stato vegetativo persistente è quando si rimane in stato vegetativo per almeno un mese e non è irreversibile. Lo stato vegetativo permanente è quando permane per 12 ore. Quello è irreversibile, sempre. Dallo stato vegetativo permanente non si torna indietro. Terry Schiavo è rimasta così per 15 anni, poi si è sospeso tutto, è morta e hanno fatto l'autopsia. Il suo cervello pesava 600 grammi, cioè la metà di un cervello normale, non avrebbe mai potuto bere né alimentarsi da sola perché i centri nervosi che governano la deglutizione erano danneggiati in modo irreversibile. Apriva e chiudeva gli occhi, ma non c'era nessuna forma di coscienza in quel cervello e non ci sarebbe mai potuta essere, per quanto chiunque si fosse prodigato in tutti i modi possibili. È molto interessante quello che ha dichiarato in quell'occasione lì a New York Times il neurologo di Harvard, che si chiama Martin Samuels. Lui ha visto il cervello, semplicemente non c'erano neuroni. Chi pensa che in queste condizioni non si dovrebbe mai sospendere nutrizione e idratazione fino alla fine naturale della vita, non ha idea che la fine naturale della vita di quei malati lì era finita 16 anni prima. Terapie verso sostegno è cura. Questa distinzione è completamente artificiale e spiega ancora come mai non si prestano queste definizioni per legge. Pensate che si muore di disidratazione. In Francia, quando c'era il caldo, a causa anche di certi farmaci che abbassano la pressione, tante persone anziane sono morte di disidratazione perché i medici, gli anziani non hanno la percezione della sete. Qual è la cura di questa situazione di disidratazione? È l'acqua. Si muore anche di troppa acqua. Se uno somministra troppa acqua in una persona che ha una cardiopatia, uno scompenso cardiaco, l'acqua va nei polmoni, si smette di respirare e si muore. La nutrizione. La nutrizione, non so se è terapia o sostegno, sono divisioni artificiali, ma la nutrizione è così importante per la vita che se la mamma non mangia abbastanza proteine, e si vede nei paesi molto poveri, il bambino nasce con pochi glomeruli nel rene, con poche isole pancreatiche, avrà la pressione alta, avrà malattie del cuore da grande, e questo per aver mangiato poche proteine, perché sono persone povere e non hanno abbastanza accesso alle proteine. Pensate quanto l'acqua e il cibo facciano parte della cura. Quindi dire è terapia, è un sostegno, non ha senso. Il medico fa il medico con quello che serve e certamente una situazione buona di idratazione e una situazione buona di nutrizione è una condizione indispensabile per guarire dalle malattie. Ottimo. Tambone. Sì, allora la prima domanda, no? Sostegno paziente in coma, concordo, il paziente in coma è un paziente come gli altri, con caratteristiche neurologiche molto specifiche e con uno stato che in parte conosciamo, in parte non conosciamo, pertanto sicuramente concordo che è un paziente che deve essere assistito, così come può essere assistito e secondo come effettivamente sia logico assisterlo per le sue condizioni specifiche per quanto riguarda il coma, generali per quanto riguarda lo stato di salute. E fra l'altro è un paziente che può effettivamente tornare ad avere coscienza. Sicuramente è un paziente molto difficile per quanto riguarda la prevenzione di patologie di comorbidità, pertanto bisogna fare un lavoro preventivo molto buono, di alto livello. Però se vogliamo anche pensare a qualcosina di più, a me sembra che un campo in cui poter lavorare e pensare, in cui già si sta lavorando, però è andare avanti su tutto il campo di trovare forme di comunicazione con il paziente in coma. E pertanto lo studio dello stato di coscienza residuo. Mi sembra che l'esperimento di cui parlavamo prima di Owen è molto interessante, ma non è l'unico, e in questo effettivamente ritengo che la collaborazione con gli ingegneri biomedici e con gli informatici potrebbe essere molto molto utile per trovare un codice di comunicazione con questi pazienti. Sondino, terapia, sostegno vitale, vabbè, io non lo so, dico bisogna mettersi d'accordo sui termini, ovviamente, non bisogna essere decostrutturisti, ma neanche costrutturisti, diceva, che cos'è la terapia? Per me, da sempre, la terapia è un intervento che mira ad intervenire su una patologia, nelle cause o nei sintomi. Il sostegno vitale, invece, è fornire a una persona ciò di cui ha bisogno per mantenersi in vita. A me sembra che l'idratazione e l'alimentazione rientrino nel sostegno vitale ed è che pure giusto, che bisognerà fornirlo sulla base dei dati dello stato generale del paziente. Pertanto ci saranno dei momenti in cui effettivamente dare altra acqua a un paziente che non può più assorbire acqua, non gli serve, sarà appunto un errore professionale da evitare. Così risponderei alle sue due domande, dottore. Trovate anche oggi sul tema che stiamo affrontando sul Corriere della Sera, come da giorni e giorni, da un paio di settimane, un paio di articoli di idee diverse di Ignazio Marino e della Rizzoli, della parlamentare del PD Melania Rizzoli. Sentiamo un po' rapidissimamente un po' di telefonate di voi ascoltatori su questo tema. Cominciamo con Stefano che ci chiama da Roma. Prego Stefano. Sì, buongiorno, io vorrei portare la mia esperienza. Un nostro capo scout di 40 anni nel 2005 è stato investito e sostanzialmente ha subito diversi interventi neurochirurgici e si trova in stato vegetativo dall'epoca, quindi tuttora in un reparto a lunga degenza. E quindi vorrei invitare tutti, diciamo, i sostenitori della vita, se è vita a tutti i costi, a visitare anche questo tipo di strutture in cui sostanzialmente la persona viene parcheggiata, non subisce alcun tipo di intervento né da un punto di vista naturalmente psicologico, perché viene valutato come un vegetale, quindi immaginiamo una pianta che viene alimentata e che comunque nessuno tranne i familiari lo porta fuori, nessuno che lo sostiene in qualche modo, lo può sostenere, lo può accudire oltre a quel minimo indispensabile per tenerlo in vita. Io ho visto anche persone amici anche di grande fede dire se dovesse capitare a me vorrei veramente poter saccare dire no, non è questa la vita che voglio né per me né per tutte le persone che ancora sono intorno a me. Chiarissimo Stefano, grazie. Ho per questo scelto solo medici oggi invece che politici che non hanno esperienza, apposta per dire, lei dice visitate voi che sostenete, i medici ne hanno cognizione diretta per quello che fanno. Andrea da Cesena, prego Andrea. Buongiorno a tutti. Io credo, a parte che io sono favorevole pure all'eutanasia se uno la sceglie, io volevo dire, secondo me fare una legge che consente a qualcuno di fare qualcosa per sé, che riguarda sé, è una scelta civile e di libertà che rispetta tutti. Tu non sei obbligato a fare assolutamente niente se non lo vuoi. Io che voglio scegliere quel modo lì di morire, penso che debba avere il diritto di poterlo fare. E finisco, secondo me, se uno non è capace di bere da solo, di mangiare da solo, neanche di deglutire, perché bisogna fargli il flebo o mettergli un sondino, cioè quello lì non è un sostegno vitale, quello lì è una cura dalle buone, altrimenti morirebbe, cioè mi sembra più semplice di così. Ma il concetto fondamentale è che io, se voglio, posso fare quella cosa. Uno lascia scritto che anche se è in coma per 20 anni vuole continuare a stare così, e lo può fare, cioè non c'è nessun problema. Grazie, buongiorno. Andrea è nella forma più ampia di autodeterminazione, compresa l'eutanasia, per capirci. Paolo da Milano. Buongiorno a tutti, premetto che anch'io sono favorevole all'eutanasia, sempre che uno la decida. Volevo solo spostare solo un filo proprio l'argomento. Prima ho sentito dire che non mi ricordo più da chi, che naturalmente bisogna spingere le persone a non chiedere di morire. Volevo sapere, però purtroppo non c'è nessuno del governo, se togliere dei fondi dalle cure palliative verso altri, dalle notizie degli ultimi giorni, è una forma che va in quella direzione, cioè quindi dell'aiuto alle persone a non chiedere, diciamo così, il mezzo estremo. Paolo, lei è riuscito per voler fare la giusta polemica sul fatto che i finanziamenti delle cure palliative sono diminuite. Io figurati, animo due iniziative a Milano a favore delle cure palliative, però è riuscito a fare in una maniera così, secondo me, involuta, che non si è capito molto. Cioè, Paolo sta dicendo che coerenza c'è tra chi si batte per la vita da una parte, come fa la maggioranza del governo, e dall'altra poi taglia le cure palliative. Cioè, forse detta così, Paolo, è più efficace che dire invece spingere a morire, eccetera eccetera. Detto questo, chiedo a Domenico Virgilio, Giuseppe Muzzi e a Vittor Tamboni un minuto a testa di considerazioni finali. Primo, sulla prima domanda, sono d'accordo con il collega che dice che questi soggetti non vanno abbandonati, ecco, e noi abbiamo messo un articolo 5 del disegno di legge che io invito a leggere, perché credo che non tutti, neppure gli addetti ai lavori, conoscono bene quello che dice la legge. Vogliamo che i soggetti in stato vegetativo siano assistiti prevalentemente a domicilio, sostenuti anche economicamente dallo Stato, le famiglie che non possono, e in alternativa in centri specifici dove possono essere adeguatamente assistiti. Secondo, sulle cure palliative, io sono contrario all'eutanasia, la legge ribadisce non l'eutanasia, l'ordinamento italiano impedisce l'eutanasia, quindi rispetto chi la pensa diversa da me, ma noi siamo per l'assoluta contrarietà all'eutanasia. Per quanto riguarda le cure palliative, noi abbiamo fatto una legge votata all'unanimità dalla Camera e al Senato per le cure palliative. Non è vero assolutamente che vogliamo tagliare le cure palliative, ribadiamo in questa legge all'articolo 1,3 che i pazienti hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata cura palliativa, e questa è fondamentale e ci pone all'avanguardia in Europa. Remuzzi. Io voglio fare un esempio per dare l'idea di come questa materia è così complessa che non può essere regolamentata per legge. All'articolo 2 e 3 questa legge precisa il divieto di ogni forma di eutanasia e di suicidio assistito, nonché il divieto di forme di accanimento terapeutico, e non definisce nulla, lo mette così. Quali sono le forme di accanimento terapeutico? Chi le definisce? La legge? Quando Kolf in Olanda ha sottoposto dialisi i primi 15 ammalati, 14 sono morti. Oggi lo chiameremo accanimento terapeutico. Kolf è andato avanti e la dialisi ha consentito di vivere in tutto il mondo a milioni di ammalati. Ed è lo stesso per la storia del trapianto. Per anni gli ammalati morivano tutti. Oggi lo chiameremo accanimento terapeutico. Per fortuna Joseph Murray, Jean Hambourget, Thomas Tuttle e Chris Barnard sono andati avanti. Ecco, questa non è una materia che si può regolamentare per legge. E questa legge ha tanti, talmente tanti problemi, che davvero invito tutti a leggerla, anche perché è una legge peraltro scritta così male, proprio dal punto di vista dell'italiano, questo purtroppo è una... da rendere a me fa angoscia l'idea che tante persone brave che ci sono nel Senato scrivano una cosa del genere. Lo so, però poi i testi spesso sono scritti da tecnici amministrativi, da funzionari di commissione che non hanno proprio... Però detto questo, adesso quella è una patologia diffusa della normazione italiana. Vittor Tamboni. Allora, io rispondo a Stefano, no? Anch'io sono stato scout, pertanto l'idea è quel giuramento che abbiamo fatto, continuare a fare farò sempre del mio meglio. Pertanto io incoraggio Stefano anche a stare vicino a pazienti così estremi. Io sono stato vicino a pazienti in stato vegetativo, in coma, e guarda, è un vissuto molto impegnativo, ma la scienza ci può aiutare tantissimo, però ci vuole anche un supplemento di cuore, e un supplemento di umanità, perché soffrono tantissimo e ci fanno soffrire tantissimo. Andrea, viva la libertà, ma senz'altro, però dobbiamo essere liberali fino in fondo, e pertanto se esiste l'autonomia del paziente esiste anche l'autonomia del cittadino medico, che deve essere, a mio modo di vedere, rispettata. Paolo, effettivamente speriamo che non tolgano fondi dalle cure palliative, ma anzi che questo venga inserito anche nel curriculum universitario in un modo un po' più sistematico ed efficace. Bene, io ringrazio il relatore Domenico Di Virgilio. La legge ne riparleremo, inizia in aula la prossima settimana. Il professor Giuseppe Muzzi, il professor Victor Tambone, come avrete capito, se non è materia sulla quale vi siete mai concentrati, fatelo, perché è un diritto, un dovere di ciascuno di noi. E onore ancora al tenente Ranzani, appuntamento a domani. Avrete capito dal tono che oggi è una questione che mi toccava molto in profondo, per molti malati che ho visto in condizioni che mi hanno molto interrogato su che cosa sia la mia vita e la vostra. A domani, Linea Generale.